Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo del disegno di legge rilancio, quello che doveva essere il DL Maggio, ricorderete che noi abbiamo battezzato DL Ristoro, perché sostanzialmente andava a intervenire ancora sul ristoro per il mese di aprile e in parte maggio, significa una manovra da 155 miliardi, con 55 miliardi di nuovo indebitamento, sono 155 miliardi di saldo netto da finanziare, ma ne parliamo oggi perché vi sono state sono gli emendamenti al DL rilancio e sono ripresi i mattinati lavori in commissione bilancio della Camera e vi sono alcune modifiche, sono tanti emendamenti però importanti da questo punto di vista. Chiaramente l'argomento principale oggi, visto che si è tenuto seppure via web e non con la presenza fisica l'appuntamento annuale del Sole 24 Ore con Telefisco, l'obiettivo si chiamava rilancio anche nel caso del video forum che si è tenuto, convegno online appunto, si sono esaminati gli ultimi provvedimenti del governo e sono stati commentati dagli esperti fiscali del Sole 24 Ore, è intervenuto sia il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili Massimo Miani, la presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro Marina Calderone, ma anche il ministro Gualtieri, che sull'IVA, sull'ipotesi di riduzione dell'IVA ha frenato, ha detto stiamo analizzando, è un elemento congiunturale, è una misura congiunturale come se si guarda quella fatta in Germania per pochi mesi, va distinto da interventi strutturali e quindi stiamo esaminando tutte le possibili opzioni. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. In apertura dicevo il DL rilancio e, del motivo per cui lo stacchetto non partirà adesso, le indiscrezioni le istruzioni che la ministra Azzolina si starebbe preparando a inviare alle scuole in vista della riapertura di settembre. C'è una bozza delle linee guida che sono attese per giovedì 25 giugno sul tavolo della conferenza unificata per essere condivise con le regioni e gli enti locali, visto che poi saranno le regioni e gli enti territoriali a dover, complice grazie anche all'autonomia scolastica, a dare poi una diversa flessibilità ai vari modelli organizzativi. Per quello che riguarda la borsa invece, segnalo che sono tutte positive le borse: Milano più 1,70 tra le migliori, Parigi più 1,1, Francoforte più 2, Londra più 0,90, Dow Jones più 0,70, bene Fiat Chrysler più 5,80, Buzzi Unicem più 3,30%, Enel più 2,90%, e ancora Estime Microelectronics più 2,70, Diassonin più 2,60, il 2,5% lo guadagna Pirelli, ma anche Prismian e UbiBank, al 2% il rialzo di Banco BPM ed Exor, ma anche Unicredit e FinecoBank. Chi è negativa? Inuit, ieri era molto salita, meno 0,60, Telecom Italia meno 0,70, percento, era meno 0,30%. Devo dire, c'è un indice di cui adesso ci occuperemo, che è l'indice PMI dell'area dell'Unione Europea, che è l'indice dei responsabili, dei direttori degli acquisti, Purchasing Manager Index, e quindi dà le indicazioni dei responsabili acquisti dei principali gruppi su come hanno intenzione di muoversi. È un indicatore anticipatore, come diciamo in gergo, e da questo punto di vista è un indicatore praticamente è salito bene oggi, perché è salito a 47 punti. Da questo punto di vista sappiamo che la distinzione è tra i 50 punti e i sopra o sotto i 50 punti, perché quello definisce la differenza tra espansione economica e invece recessione economica. Comunque 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Sì, anche perché l'indice PMI a maggio, parlo di quello europeo e non quello italiano, dell'area euro per essere più precisi, era a 32 punti, è salito a 47,5, ripeto, ancora sotto la soglia dei 50 punti, ma sicuramente più vicino a un indice di equilibrio rispetto ai 32 punti di maggio. Andiamo con le altre notizie di carattere internazionale. Allora, mentre continua a essere molto in crescita la curva della pandemia in America Latina, sono un po' rallentate le percentuali di contagi e morti, ma si è arrivati a 97.500 decessi, per meno quelli censiti, e 2.090.000 contagi. A San Paolo, in Brasile, però, sono stimati... c'è una stima delle autorità che dice dovrebbero esserci 1.200.000 contagiati, secondo il primo risultato di una massiccia campagna di test condotta dal comune di San Paolo. E invece, come vi hanno ricordato i nostri GR24, in Germania il distretto di Gütersloh verrà sottoposto di nuovo al lockdown, lo ha annunciato il ministro presidente del Land, sottolineando che è stato il primo distretto in Germania che torna alla chiusura per contrastare il diffondersi del coronavirus a causa del focolaio ormai famoso del mattatoio di Tönnies. Sono 1.535 i contagi registrati nel più grande mattatoio a livello europeo. A proposito della Germania, l'altra vicenda, quella di Wirecard, un buco incredibile che ieri ha fatto precipitare il titolo del 34%, e il fondatore e ex numero uno Marcus Braun è in stato di fermo su mandato della procura di Monaco di Baviera. Il colosso informatico tedesco è infatti accusato di avere, diciamo, dichiarato falsi ricavi, quindi un buco in bilancio di quasi 2 miliardi di euro. Chiudiamo con l'Europa per quello che riguarda invece la Gran Bretagna, visto che parlavamo di lockdown e di misure. Allora, la Gran Bretagna e il Regno Unito accelera e andrà a terminare il lockdown il 4 luglio, lo ha formalizzato oggi Boris Johnson alla Camera dei Comuni. Il distanziamento sociale, o meglio fisico, passerà dai 2 metri attuali a 1 metro, in modo da consentire l'avvio della riapertura di alberghi, ristoranti e pub dotati degli spazi sufficienti. Il 4 luglio riapriranno pure i cinema, i musei, i parrucchieri e altri luoghi pubblici. L'Italia, lo spread è oggi tranquillo e basso, è un po' di giorni che così, è a 168 punti. Per quello che riguarda invece altre notizie, oggi l'autorità, il garante per la protezione dei dati personali, nella sua relazione sull'attività annuale, quindi svolta nel 2019, ha comunicato che sono state notificate all'autorità garante ben 1.443 violazioni dei dati personali. Sentiamo Antonello Soro. Sono ancora troppi i sistemi informativi, soprattutto pubblici, caratterizzati da vulnerabilità suscettibili di pregiudicare tanto la sicurezza nazionale quanto la dignità dei soggetti i cui dati siano divulgati. Il data breach dell'INPS, che ha determinato l'esfiltrazione di dati rivelatori anche di condizioni di fragilità economica, è in questo senso significativo. Esso dimostra, peraltro, l'importanza delle regole di protezione dati ai fini tanto preventivi quanto remediali, se non altro per circoscrivere gli effetti delle violazioni, come apparso evidente rispetto alle 1.443 notifiche di violazione dei dati personali ricevute dal Garante nel 2019 da parte di soggetti pubblici e privati. E adesso, prima di arrivare al DL rilancio, c'è una pagina un po' eterogenea, un po' variegata, che riguarda il mondo delle infrastrutture. Non che le cose siano per nessun motivo una vicino all'altra, diciamo il tema generale è quello delle infrastrutture. Partiamo da Autostrade Atlantia, perché questa mattina l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, è intervenuto a 24 mattina con Simone Spezia e Maria Latella. Sapete che c'è tutto il contenzioso in corso e si attende di capire come finirà. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, il commissario straordinario del ponte di Genova, Bucci, ha fatto notare che vorrebbe capire a chi deve consegnare per il collaudo sto ponte, cioè chi poi lo gestirà. Chiudo la parentesi. Allora, Tomasi ha detto: sono ottimista, è dal luglio del 2019 che dialoghiamo con il governo per cercare un componimento alla situazione, siamo disponibili, abbiamo messo in atto tutte le azioni di tutela necessarie sia nei confronti dell'Europa che dei tribunali amministrativi, perché parliamo di un'azienda con 7.000 dipendenti e 7 miliardi di investimenti pronti a partire con progetti esecutivi già approvati. Nel ruolo che ricopro non posso che essere, cercare di essere ottimista fino in ultima. È da luglio del 2019 che dialoghiamo col governo per cercare un componimento, quindi ormai siamo quasi a più di un anno di dialoghi. Ovviamente abbiamo messo in atto tutte quelle che sono le azioni di tutela, anche la lettera di ieri che dà l'apertura evidenzia anche quali sono le azioni di tutela che dobbiamo comunque, sia nei confronti dell'Europa, sia nei confronti dei tribunali amministrativi, che abbiamo attivato per salvaguardare l'interesse dell'azienda. Parliamo di 7.000 dipendenti, parliamo di investimenti che poi vedremo, sono ad oggi abbiamo circa 7 miliardi di investimenti pronti a partire. Pronti a partire vuol dire con autorizzazioni già presenti, autorizzazioni ambientali, conferenze di servizi chiuse, progetti esecutivi approvati, quindi di un quadro di riferimento complesso e che credo che debba essere considerato un valore per il sistema paese. Poi un principio di autocritica, allora posso immaginare che non volesse entrare nei temi che vedono un confronto, insomma, molto serrato tra il governo e la società Autostrade, con nel mezzo l'ipotesi di revoca per quello che è successo col ponte Morandi, ma non solo, e a mio avviso anche per quella che fu la reazione dell'intero gruppo a suo tempo, che certo non aiutò, al di là delle 34 vittime che sono la cosa principale, però ci fu una reazione di dire, insomma, che non provò neanche da immaginare una responsabilità in chi quell'opera la stava gestendo. Comunque Tomasi dice: in passato è mancata una visione strategica, ci vuole una pianificazione di medio e lungo termine. Nel sistema quello che emerge dopo l'evento del Morandi è una non gestione del sistema o non corretta gestione del sistema infrastrutturale del paese. I sistemi infrastrutturali del paese hanno bisogno di prospettive di medio e lungo termine, non possono essere gestiti su una prospettiva di brevissimo termine. Nell'ultimo anno, nella collaborazione con il Ministero, abbiamo fatto grandissimi passi avanti. Avete, nell'ultimo ventennio, avete mancato, avete sbagliato qualcosa nella manutenzione, nella pianificazione della manutenzione? È mancata questa visione strategica della manutenzione, assolutamente sì. La mancanza di una chiara definizione, non c'è stata la possibilità di definire un piano di manutenzione coerente con quello che era necessitato. Sì, uno potrebbe aggiungere, ho detto 34, chiedo venia, erano 43 purtroppo le vittime del ponte Morandi. Sì, uno potrebbe dire, non è colpa di Tomasi che non era lì a suo tempo, che più che mancata la visione strategica nella gestione della manutenzione, diciamo tutta, anche grazie agli errori commessi da chi ti ha dato in concessione la rete autostradale, quindi il governo, andavi ad aumentare le tariffe dei pedaggi per investimenti futuri e non l'opposto, non che tu una volta fatti gli investimenti potevi richiedere l'aumento tariffario, con la conseguenza che la cassa dei Benetton di Atlante è aumentata. E quindi non è solo una visione strategica, se questo vuol dire che la visione a breve, che si è pensato più a far skate e a far cassa e meno a far manutenzione, sono d'accordo. Però insomma, per uscire, diciamo, dal linguaggio visione strategica, non c'è mai stato, e questa è una responsabilità in parte anche dello Stato, oltre che del concessionario, una corrispondenza tra ricavi dovuti ai pedaggi autostradali e investimenti fatti per la sicurezza. Questa è l'assenza, diciamo, di visione strategica. Più importante è portare dividendi utili alla casa madre. E questo è un fronte. Poi adesso andiamo a un altro fronte, così sarà soddisfatto chi dice adesso non parlerà mai di Milano. Sto per parlarne. Allora, 8 appalti da 150 milioni di euro al centro dell'inchiesta della Procura di Milano, che stamani ha portato in carcere 12 persone, tra cui il dirigente della TM Paolo Bellini e uno ai domiciliari, con accuse di vario titolo: associazione per delinquere, corruzione, turbativa d'asta, peculato e abuso d'ufficio. 30 le persone fisiche indagate e 8 le società indagate. Tra gli arrestati, due manager di Alstom Ferroviaria e uno di Siemens Mobility. A Bellini vengono contestate presunte tangenti per 125 mila euro tra il 2018 e il 2019. Il procuratore capo di Milano, Greco, ha detto sostanzialmente, Francesco Greco, che le indagini hanno accertato l'esistenza di un sistema di metodica alterazione di gare ad evidenza pubblica indette da TM SPA, gravitante attorno alla figura di Paolo Bellini, pubblico ufficiale con il ruolo di responsabile dell'unità amministrativa complessa sugli impianti di segnalamento e automazione. Qui, secondo l'accusa, volavano le tangenti per gli impianti di segnalamento e automazione delle linee metropolitane 1, 2, 3 e 5, anche perché la 4 la stanno ancora costruendo e non c'è, se no probabilmente c'era anche la 4 dentro. E tra l'altro un episodio di corruzione riguarda anche l'assegnazione dell'appalto relativo al sistema di segnalamento della M1, la rossa. È importante questo, perché ricorderete che ci siamo occupati anche nella poco invidiabile classifica un anno fa delle cosiddette frenate improvvise, frenate brusche d'emergenza, cioè qualcosa non funzionava nel sistema di segnalamento, i treni frenavano all'improvviso, ci sono tre persone che si sono fatte male, chi ferito, chi contuso. Ecco, non abbiamo certo noi in mano le indagini, però il procuratore Greco ha spiegato che in procura sono aperte anche le indagini sulle frenate con feriti che si sono ripetute per mesi. Di quel sistema di sicurezza se ne occupa Alstom, e infatti segnalamento e automazione significa anche questo, che è finita al centro d'inchiesta sugli appalti. Quindi c'è poi l'accusa di soffiate su gare, mazzette, mensili, intercettazioni in cui Bellini diceva ho un'altra gara importante da 18 milioni, questo è un bel lavoretto da fare, è l'installazione delle colonnine elettriche per gli autobus in tutti i depositi, c'è da chiudere la banchina, insomma, anche sul tema delle frenate. Addirittura Bellini viene beccato in dire metti pure il cavo sbagliato, c'è una stampigliatura di un cavo con caratteristiche diverse da quelle richieste, ma Bellini suggerisce che la posa di un cavo sbagliato sarebbe sicuramente passata inosservata, salvo un incidente, un incendio, un cortocircuito, ma per arrivare a quello deve bruciare la galleria. Grazie Bellini. E questa è un'altra vicenda edificante, visto che il sindaco Sala ha detto ATM è un'eccellenza milanese e il suo lavoro non sarà infangato dalle malefatte di pochi. Ovviamente mi aspetto provvedimenti immediati da parte dell'azienda nei confronti di chi è stato coinvolto nei procedimenti giudiziari e una seria verifica dei processi aziendali. E infine, visto che c'è un pacchetto, ho detto tutto legato al mondo delle infrastrutture, la vicenda aeroportuale. Allora, oggi è intervenuta il ministro Paolo De Micheli in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, ha detto se l'anno scorso abbiamo registrato 191 milioni di passeggeri nei nostri aeroporti, più 3,5%, quest'anno speravamo di superare i 200 milioni, ma dopo il Covid il massimo raggiungibile sarà di 80 milioni, quindi a casa mia stai parlando di un 40% scarso rispetto alle attese. In particolare, presso il MIT è stato istituito un fondo di 130 milioni per il 2020 finalizzato a compensare i danni subiti dagli operatori nazionali a seguito della pandemia. I beneficiari di tale fondo sono i vettori di categoria A, ossia quelli che impiegano aeromobili aventi un numero di posti superiore a 19, titolari di COA e di licenza di esercizio di trasporto aereo in corso di validità, rilasciati dall'ENAC. È stata prevista la costituzione inoltre di una NUCO per l'esercizio di attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, interamente controllato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero eventualmente controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta, previa autorizzazione della Commissione europea. L'elemento chiave della disposizione relativa alla NUCO è la discontinuità. La nuova società partirà da zero con un obiettivo di sviluppo e di rilancio. Questo invece è il passaggio della De Micheli in cui ricorda l'elemento di discontinuità. La NUCO è la nuova società, New Company sarebbe NUCO. Nuova società all'Italia, e il motivo per cui i 3 miliardi, detto la De Micheli, un grande investimento per il paese, ma devono garantire una totale discontinuità con un progetto appunto che partirà da zero per lo sviluppo e il rilancio. Staremo a vedere, io che devo fare su all'Italia, più che essere così, avere l'ottimismo della volontà, altro non riesco ad avere. E comunque il ministro dello sviluppo Stefano Patuanelli, sempre in audizione alla Camera, su Alitalia ha fatto notare che nonostante il Covid Alitalia incassa ancora 232 milioni, elogiando il lavoro del commissario straordinario. Poi Patuanelli ha detto: discontinuità non significa smembrare la compagnia, perché è uno dei valori su cui il governo non ha nessuna intenzione di retrocedere. E chiudiamo con un dato che certo non ci fa piacere, non è tanto la vicenda di EasyJet, se ne è già occupato GR24 in Calabria, la pagina che avrebbe dovuto pubblicizzare la Calabria. Io non so chi gliel'abbia scritta, vabbè, mi sembra una follia. E poi tra l'altro una cosa scritta qualcuno l'avrà letta prima. Comunque adesso non ho chiesto scuse ai calabresi, ma no, invece il dato che sicuramente non ci fa piacere è l'andamento del mercato pubblicitario nel 2020, che varrà poco più di 7 miliardi di euro, è il dato peggiore da almeno 15 anni. Pensate che l'anno scorso il mercato pubblicitario aveva fatto 8 miliardi e 700 milioni complessivamente, è un meno 18%, lo stima il Politecnico di Milano. E anche la pubblicità online, per la prima volta nella sua storia, dovrebbe subire una contrazione degli investimenti di almeno il 14%. Vabbè, radio, stampa, si stimano decrescita del 20%, per la televisione del 13%. Meteo e appunto pubblicità, e poi andiamo con il DL Rilancio, dove sono ripresi i lavori in commissione bilancio della Camera e gli emendamenti. Focus Economia. minuti, dunque sono ripresi in mattinata i lavori della Commissione Bilancio della Camera sul DL Rilancio. Il DL Rilancio è quello che doveva essere il DL Maggio, poi il DL che ho chiamato Ristoro, in sostanza interveniva ancora sulla parte di ristoro, di tampone, dei mesi di aprile e maggio, 155 miliardi, di cui 55 miliardi finanziati con nuovo indebitamento. E vi sono varie novità, ci sono 40 proposte di modifica. Ora è chiaro che non possiamo elencarle tutte, però chiedo aiuto in senso vero a Marco Rogari del Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Buonasera, buonasera agli ascoltatori. Sulle novità principali, gli emendamenti principali, ho visto per esempio un bonus di 600 euro anche ai caregiver, cioè quelle persone che sono prese cura di un parente in condizioni di non autosufficienza o disabilità, l'assegno di accompagnamento che non peserà sull'ISE, la sospensione dei protesti fino al 31-12, quindi uno degli emendamenti, e ancora lo stop alla TOSAP, cioè le tasse per l'occupazione di aree pubbliche, anche per manifestazioni culturali autorizzate. Insomma, facci tu il punto, Marco, perché chiaramente 40 proposte di modifica sono un bel pacchetto. Come è stato detto, queste sono le novità principali, anche se va sottolineato che questo pacchetto non è ancora definitivo, cioè non è stato ancora depositato in commissione e quindi potrebbe essere oggetto di qualche piccolo ritocco, insomma. Comunque le novità principali sono quelle elencate, è il bonus di 600 euro ma solo per due mesi, aprile-maggio, per i caregiver familiari, l'esclusione dal vincolo ISEE per le indennità di accompagnamento per chi ha disabili in famiglia, un'altra misura che può avere, come posso dire, un elemento di novità è il bond sport, cioè la possibilità per sport e salute di emettere bond per favorire progetti di sviluppo per l'attività sportiva. E questo è un elemento di novità. Salta poi, parlando di piani di investimento, piani di risparmio, salta la soglia di 30.000 euro annuali per quanto riguarda gli investimenti che sono limitati a 150.000 euro complessivi, per cui si potranno anche investire 150.000 euro al primo colpo senza avere più il vincolo di 30.000 euro. Queste sono, diciamo, le novità principali. C'è poi l'esclusione della TOSAP, come è stato detto dalle manifestazioni culturali. Sì. Ci sono tutta una serie di micromisure su Vigili del Fuoco, ancora disabilità, borse di studio, sono salve le borse di studio per gli studenti fuori sede, ad esempio, quindi, però ancora non si toccano i temi principali che sono in agenda. Sì, a questo punto l'iter, cioè oggi erano i lavori in commissione bilancio della Camera, Marco. Sì, stasera dovrebbe arrivare un solo emendamento del governo con cui viene inserito l'ultimo decreto sulla cassa integrazione, quello che è stato varato per risolvere il problema delle 5-4 settimane. Quindi dare continuità a 9 settimane, verrà inserito nel corpaccione del decreto bilancio, che già consta di 266 articoli, 1051 commi prima delle modifiche, e ora si trova a dover assorbire anche il decreto legge sulla CIC. Per il resto intendiamo l'estensione del super bonus a tutte le seconde case e possibilmente anche agli alberghi, il fondo perduto per le imprese, il bonus professionisti, gli aiuti ai settori del turismo e delle auto, le auto che sono state ignorate di fatto da questo decreto, così come l'eventuale estensione della platea del bonus affitti, tanto per dirne alcune. Bisognerà ancora aspettare perché la maggioranza non ha ancora trovato un'intesa sulle modifiche da introdurre e soprattutto perché c'è il vincolo delle risorse disponibili. A disposizione ci sono al momento solo tra virgolette 800 milioni, che sono chiaramente insufficienti per dare una soluzione ai quesiti aperti che ho appena elencato. Quelli che tu adesso ricordavi. Grazie anche a Marco Rogali del Sole 24 Ore. Adesso, prima di andare sul traffico e passare al tema scuola, visto che ci sono novità oggi in attesa dell'incontro di giovedì, vi do rapidamente la chiusura dei mercati finanziari, sostanzialmente in linea con quanto già ricordavamo, forse anche, anzi, chiudono sui massimi le borse, più 1,90 Milano, più 2,13 Francoforte, più 1,40 Parigi, più 1,40 anche Londra. Snam negativa dello 0,30, Inwit dello 0,30, sono gli unici due titoli con Telecom Italia che perde lo 0,20 e Italgas negativi. Tutto il resto sale, ripeto, bene anche Francoforte. L'indice PMI ha influito positivamente, poi su Fiat che guadagna 5,80 ci si aspetta via libero definitivo al prestito garantito dallo Stato da 6 miliardi e 300 milioni. Fiat ha appunto confermato che non distribuirà dividendi nelle controllate italiane. Exor più 3,24%, appunto la controllante di Fiat. Buzzi Unicem più 3,20%. E di Assori in più 3, UBI più 2,90, Pirelli più 2,80 come Banco BPM, ST Microelectronics ed Enel, il 2,5 lo guadagna Atlantia, ma anche Finecobank, il 2,20 il rialzo di Unicredit ed Azimut, il 2% di Prismian, Tenaris e Saipem. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La tua impresa ha bisogno di liquidità immediata. Da oggi puoi incassare in anticipo le fatture emesse in modo facile e veloce. E come? Con Incassa Subito, il servizio del gruppo Team System per piccole e micro imprese, senza costi di attivazione, 100% digitale e da oggi accessibile a condizioni sempre più competitive. E per i clienti Team System è già integrato nel gestionale. Allora è facile, lo attivo subito. Provalo subito su incassasubito.com. Team System. Focus Economia. Allora, dovrebbero esserci nell'ordine, giovedì vi sarà la conferenza unificata, quindi regioni ed enti locali assieme a presidi e uffici scolastici territoriali, saranno i veri, diciamo, protagonisti nell'organizzazione per il ritorno in classe dopo l'estate. Perché faccio notare, adesso racconteremo anche le anticipazioni, che ad ora immaginiamo un rientro al 14 di settembre, ma aspettiamo ufficialmente ancora le linee guida. Mancano 83 giorni all'inizio della scuola. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, è forse il giorno speciale. Oggi è sabato, meno male. E anche oggi è sabato, Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, noi continuiamo col countdown e lo faremo finché non avremo le indicazioni e le linee guida ufficiali, perché in queste settimane sulla scuola abbiamo sentito di tutto. Però, mentre stiamo per far sentire, ce l'abbiamo, il ministro Azzolina poco fa ha fatto una dichiarazione su Facebook che siamo riusciti a scaricare in questi istanti. Ascoltiamola assieme a Eugenio e poi vediamo di capire gli scenari che si stanno delineando e le linee guida. Come sapete, in questi giorni stiamo lavorando senza sosta alle linee guida per la riapertura delle scuole il prossimo settembre. Un lavoro complesso che stiamo portando avanti con gli stakeholder della scuola, con le regioni e gli enti locali, e che chiuderemo questa settimana. So che sono molto attese e stiamo collaborando tutti per il bene dei nostri studenti. La riapertura però non è fatta solo di misure di sicurezza e di prevenzione del contagio. Stiamo guardando anche oltre. Dal prossimo settembre, ad esempio, troverà applicazione la legge sull'educazione civica, che torna ad essere obbligatoria, valutata con voto. Vogliamo che le scuole siano preparate e abbiano predisposto le necessarie linee guida. Il ritorno dell'educazione civica riguarderà tutti i livelli di istruzione, dai bambini dell'infanzia al secondo ciclo. Lavoreremo affinché le ragazze e i ragazzi cittadini siano consapevoli e conoscano i propri diritti e doveri, e affinché fin da piccoli possano imparare principi come il rispetto dell'altro, il rispetto dell'ambiente che li circonda, utilizzino linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete. Le linee guida che abbiamo predisposto ruotano attorno a tre assi, sui quali si baserà anche l'insegnamento in classe. Il primo riguarderà l'approfondimento della Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. Il secondo asse è quello dello sviluppo sostenibile, che si concentrerà sull'educazione ambientale, sulla conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU. Il terzo asse è quello della cittadinanza digitale, a cui tengo particolarmente, perché pur essendo i nostri giovani nativi digitali, hanno bisogno di essere adeguatamente sensibilizzati rispetto ai rischi che si corrono nell'utilizzo della rete e dei social media, e formati rispetto ad un uso corretto e consapevole del linguaggio e del web. Gli episodi di bullismo e cyberbullismo e il problema diffuso dell'utilizzo di un linguaggio violento ci dicono che c'è molto da fare. Le linee guida sono un documento snello che i dirigenti scolastici potranno consultare e attuare facilmente. Realizzare questo documento e inviarlo alle scuole è un atto non solo amministrativo, ma anche un atto profondamente simbolico. Ci dice che l'avvio del nuovo anno scolastico sarà non solo il momento del ritorno in classe, ma anche l'inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva. Solo così le difficoltà che stiamo affrontando a causa della pandemia saranno non solo un ostacolo da superare, ma un'occasione di miglioramento, uno stimolo a guardare avanti, per tutti. Oggi è sabato, domani non si va a scuola. Oggi è sabato, è forse il giorno speciale. Oggi è sabato, meno male. Ah sì, meno male. Adesso Eugenio Bruno, io non voglio, perché poi con il ministro Azzolino ho già dato, ne ho chiesto le dimissioni a suo tempo, ma nessuno mette in discussione l'educazione civica, l'importanza dell'educazione civica, dell'approfondimento, dello sviluppo sostenibile, della cittadinanza digitale, del cyberbullismo, e figurati se non siamo d'accordo su questo, ma farei notare che vorrei capire ancora come riaprono le nostre scuole, unico paese in Europa a non averle ancora aperte. Eugenio, mi rendo conto che sia un po' più prosaico rispetto all'educazione civica, al senso di cittadinanza, al dovere del cittadino e allo sviluppo sostenibile, ma mi puoi raccontare se ci saranno plexiglass, distanza di un metro, spazi aperti, spazi chiusi, orari differenti, mattina, pomeriggio, non so, mi rendo conto, siamo un po' così, terra a terra, prego. Mi piacerebbe soddisfare la tua curiosità, che è la stessa, credo, di molti radioascoltatori. Ho dato un'occhiata alla bozza di linee guida, non quelle sull'educazione civica di cui parla la ministra, ma quelle sulla riapertura, e devo dire che di risposte non ce ne sono ancora tante, nel senso che ci sono delle indicazioni generali e generiche che dovranno poi essere messe a terra, dovranno essere tradotte in pratica a livello di singola scuola. Cioè si lascia alle singole scuole il compito di decidere quale sarà la soluzione più adatta per far rientrare tutti in classe a settembre. Ci sono alcuni esempi, si parla di turni, di classi divise in gruppi, quindi in sottoclassi, c'è l'ipotesi di allungare l'orario settimanale al sabato, quindi di aprire le scuole anche di sabato. C'è la possibilità di la base sarà rispettare le distanze e le mascherine, indossare le mascherine. Su questo però si rimanda al documento di fine maggio, a quello dei tecnici del Ministero della Salute, e si dice che se cambia qualcosa saranno loro a doverlo comunicare. Sì, abbiamo avuto Miozzo qui, per cui ospite come CTS, che ci ha detto che lui non ha mai suggerito il plexiglass. Quindi, insomma, al di là dell'igiene personale, la febbre, l'obbligo di distanziamento di un metro o due in palestra, l'uso delle mascherine, forse solo negli spazi comuni, però voglio dire, siamo al condizionale, no? In questo momento. Ma lo dico perché io non ho capito se l'Azzolina si renda conto di quello che sta facendo anche nella comunicazione, perché fare un messaggio su Facebook mentre tutti quanti stiamo aspettando di avere delle regole base per parlarci dell'educazione civica, è ovvio che non ti fa venire voglia di essere civicamente educato. Però giovedì dovremmo avere queste norme, che poi verranno elaborate dalle regioni, dai presidi, insomma da tutto quello che è l'autonomia scolastica. Allora, giovedì dovremmo averle. Per tutti i fatti che hai raccontato in questi giorni, il condizionale ce lo metto anche io a questo punto. Diciamo, il timing dovrebbe essere giovedì le linee guida e la data di inizio anno scolastico, quindi la conferma o meno del 14, con la parentesi subito dopo dell'election day, ma questo è un altro problema. Poi subito dopo dovrebbero partire dei tavoli regionali dove tutte le parti in causa, quindi i presidi, gli uffici scolastici, i sindacati, si siedono e sulla base della situazione delle singole scuole si decide cosa far partire e come far partire. Aggiungo, torna la didattica a distanza, o meglio, anche lì c'era stata una fuga in avanti, poi smentita, poi è tornata. Nella bozza di oggi la didattica in distanza torna solo per le superiori e come eventualità. Cioè solo alle superiori si potrà, in quest'ottica di scegliere la soluzione migliore, prevedere che alcuni gruppi siano in classe e altri possano seguire da casa e poi magari alternarsi. Ascolta, altra cosa. Eugenio, io GR24, no, siccome questa mi interessa molto perché tu hai letto la bozza e poi vorrei anche rispondere agli stakeholders citati dal ministro Azzolina, vabbè, poi facciamo anche una distinzione tra stakeholders e shareholders nella scuola, è la prima volta che sento parlare di stakeholders nella scuola, ma non è la prima volta di tante cose. Dopo il GR24, 349-238-6666 per sms e whatsapp, forse è meglio non farla sentire. Comunque, andiamo su GR24. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Focus Economia. Allora, vabbè, qualcuno dice che c'è un accanimento nei confronti, sono 18.09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, che c'è un accanimento nei confronti del ministro Azzolina. No, mi sono permesso di dire che da un messaggio su Facebook, visto che stiamo attendendo da mesi, unico paese in Europa, di sapere come riapriranno le scuole a settembre, sentir parlare dell'importanza dell'educazione civica va benissimo, anche dello sviluppo sostenibile, anche della cittadinanza digitale, del cyberbullismo, però vorremmo delle informazioni più pratiche. Quanto a stakeholders della scuola citati dall'Azzolina, allora vorrei sapere chi sono gli stakeholders della scuola e chi sono i shareholders della scuola, per usare il linguaggio dell'Azzolina, e cioè chi sono i portatori di interessi e chi sono gli azionisti. È fondamentale in questo senso, perché se gli azionisti sono gli studenti, i portatori di interesse sono gli insegnanti e tutto il mondo che ruota attorno. Se invece gli azionisti sono gli insegnanti, i portatori di interesse sono gli studenti e le loro famiglie. Giusto per capire, perché non basta dire stakeholders, bisogna capire anche quali sono gli shareholders, che di solito sono quelli che poi hanno il peso più forte. Comunque, Eugenio Bruno, ci stavi raccontando dalla bozza quello che si è capito, che forse la didattica a distanza potrebbe restare per le scuole superiori? Sì, è così, te lo confermo. Saranno le singole scuole a scegliere se valutare questa opzione o no. Una variabile fondamentale è quella degli spazi. È chiaro sin d'ora che gli spazi attuali per molte scuole non basteranno, anche se la vice ministra Scani ha quantificato in un 20% di scuole superiori le situazioni più critiche. Da questo momento, o meglio da giovedì, se ci saranno le linee guida, dopo che verranno condivise, partirà la caccia agli spazi. All'interno dei comuni le scuole dovranno rivolgersi a biblioteche, cinema, teatri, parchi, per provare a organizzare questa didattica diffusa che emerge dalle linee guida. Sì, ecco perché il tempo non è una variabile secondaria, perché una volta che tu avrai le linee guida, appunto, nel rispetto dell'autonomia scolastica, dovrai iniziare a fare un lavoro molto molto lungo e anche diverso sul territorio, se ho ben capito, Eugenio. Sì, diciamo, dovranno partire due strumenti: i tavoli territoriali che abbiamo citato prima, e cioè che dovranno individuare le soluzioni migliori per le singole scuole, e collegati a questo ci saranno delle conferenze di servizi, nome che conosciamo, diciamo, quando parliamo di edilizia, di cantieri, perché parallelamente bisognerà mettere in sicurezza gli spazi, riconvertirli. Non si parla di plexiglass, c'è un accenno però a delle strutture mobili, quindi possiamo immaginare che le scuole che hanno dei giardini potranno ospitare delle tensostrutture. Vabbè, ma tanto c'è tempo, no? Nel senso, no, va bene anche le tensostrutture, va bene tutto, però a questo punto, visto che non devo essere polemico, aspettiamo con ansia giovedì le linee guida che permetteranno, immagino, da lunedì prossimo di iniziare questo lavoro faticoso, che non prendo in giro, ci mancherebbe, sul territorio. Ma ecco perché chiedo di fare in fretta, perché per mettere una tensostruttura, per utilizzare un cinema, un teatro o quant'altro, per decidere quali classi restano nelle superiori a casa o no, devi iniziare a lavorare adesso, e già, secondo me, non hai molto tempo. Grazie anche Eugenio Bruno, non voglio aggiungere altro sulla scuola, e invece passare, devo dare i dati appena diffusi dalla Protezione Civile, e poi passiamo invece ai temi del fisco, visto che oggi c'è stata, anche se in versione digitale, c'è stato l'appuntamento annuale con Telefisco. No, sorrido perché mi ha scritto un ascoltatore: voglio vedere le tenso strutture a Bolzano a dicembre. Sì, non ci avevo pensato, ma in effetti devi riscaldarla bene la tenso struttura. Vale anche per la Val d'Aosta, vale anche per gli Abruzzi, nelle parti diciamo più montagnose. Va bene, adesso per favore dai, iniziamo a cercare di capire cosa succederà. Prima però i dati sulla protezione civile. Dati di oggi, i dati sono buoni nonostante le preoccupazioni che tutti quanti abbiamo per quello che sta capitando in Germania. I positivi sono 1000 in meno. Partiamo dai dati clinici: i decessi sono 18 in più, è un dato molto basso, per fortuna, con tutto rispetto per i deceduti, ma insomma è un dato che non vedevamo adesso vedremo le agenzie cosa ci diranno, ma è un dato che insomma non vediamo da settimane, mesi a mio avviso. In terapia intensiva ci sono 12 posti in meno e anche i ricoverati sono 185 in meno, meno 9% i posti in terapia intensiva, meno 9% i ricoveri e più 0,1 i decessi. Questi dati di oggi, poi se andiamo su quelli non clinici, ci sono appunto i positivi, 1000 in meno, i nuovi contagi sono 113 in più. Allora, intanto diciamo Telefisco, chiaramente tutta l'attenzione è stata concentrata anche sulla proposta, sull'ipotesi di una riduzione dell'IVA, ne abbiamo parlato a lungo ieri, ha un po' frenato il ministro dell'economia Gualtieri, che era appunto collegato, sull'ipotesi diciamo di riduzione dell'IVA, e ha detto comunque riprenderemo il cammino della riforma fiscale. Naturalmente l'opportunità c'è, perché noi possiamo con le risorse europee non fare la riforma fiscale, perché non sono risorse per la riduzione delle aliquote, ma noi però con le risorse europee possiamo rilanciare in modo senza precedenti gli investimenti pubblici e privati, che sono una componente fondamentale per il rilancio dell'economia e anche per l'aumento del nostro potenziale di crescita. Dentro questo quadro si possono definire degli spazi per una riforma fiscale che noi, come abbiamo sempre detto, deve essere orientata alla semplicità, alla progressività, alla riduzione del carico fiscale sul lavoro, sull'impresa e al contrasto all'evasione fiscale. Allora, Jean-Marie Delbo, che è vice direttore del Sole 24 Ore, ha coordinato diciamo anche la giornata di Telefisco. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Gualtieri diceva un po' frenato sull'IVA, l'ha definita congiunturale anche guardando l'esempio tedesco, cioè una misura a breve termine, invece lui dice stiamo valutando invece interventi di carattere più strutturali. Al di là della congiuntura della struttura, mi sembra un po' una gettare acqua sull'ipotesi della riduzione dell'IVA. Sì, lui ha utilizzato questo artificio per dire che cosa gli sta più a cuore. Quello che gli sta più a cuore, la scelta che lui farebbe, sarebbe una riduzione del costo del lavoro. L'impressione quindi netta cuneo fiscale, diciamo, è stata che l'intervento sul cuneo fiscale sia preferito a qualunque riduzione di aliquota IVA momentanea senza un futuro a medio-lungo termine. E questo esprime la posizione di Gualtieri, del PD, perché insomma Conte aveva aperto invece a un'altra ipotesi. Sì, Conte aveva aperto a un'altra ipotesi, peraltro per poi frenare molto anche lui, perché probabilmente si è reso conto che da un lato ci sono altre priorità anche nell'ambito dei gruppi che lo sostengono, dall'altro i costi di questo intervento a breve termine erano peraltro piuttosto elevati. Prima del traffico vorrei chiudere con Gualtieri, poi passiamo invece all'Agenzia delle Entrate, quindi a Ruffini e anche ai commercialisti, a Miani. Gualtieri ha detto: non siamo preoccupati per le entrate. Ecco, questa frase va contestualizzata. Dice: le imposte rinviate ammontavano a 20 miliardi e non ne sono state versate per 13 miliardi. Sì, diciamo che la domanda era se, vista la pandemia, visto il lockdown, il governo era particolarmente preoccupato di un crollo delle entrate. La risposta è stata: noi siamo abbastanza tranquilli, nel senso che la diminuzione c'è stata, ma è stata meno dell'atteso, meno di quello che ci aspettavamo. Naturalmente resta, però... Certo. No, beh, se ti aspettavi 20 miliardi, cioè sostanzialmente un punto e qualcosa, un punto e due di PIL, e ne hai avuti 13, cioè 0,8 di PIL, è chiaro che non sei preoccupato, perché non sono mancati 7 miliardi che ti aspettavi che mancassero di entrate fiscali. Dopo il traffico invece gli interventi di Ruffini e appunto dei commercialisti italiani, ma anche di chi rappresenta il mondo del lavoro, e quindi... Marina, la Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Acquisto o noleggio? Perché scegliere quando puoi averli tutti e due? Con Noleggio Chiaro puoi scegliere oggi l'auto di Fiat Chrysler Automobiles che desideri e acquistarla dopo 3 anni a un prezzo garantito. Ad esempio, Alfa Romeo Stelvio Super con cerchi Lega da 19 pollici e tuo da 349 euro al mese, con RCA, furto incendio, copertura danni e manutenzione inclusi nel canone. Offerta valida fino al 30 giugno e soggetta ad approvazione Lisis, durata del noleggio 36 mesi. Anticipo 11.900 euro. Info su noleggiochiarofca.it. Focus Economia. Allora, gli altri temi di carattere fiscale, al di là della posizione del ministro Gualtieri, affrontati oggi durante Telefisco. Sapete che il pagamento delle tasse è rinviato di 20 giorni, questo ha suscitato più di una polemica, cioè IRPEF, IRES e IVA in scadenza il 30 giugno, sono più o meno 4 milioni e mezzo i contribuenti coinvolti, sono rimandati di 3 settimane, e molti dicono: vabbè, che differenza c'è tra il 20 luglio e il 1 di luglio? Mentre oggi il responsabile, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha detto che il DL Rilancio ha prorogato al 31 dicembre 2021 la notifica degli atti di accertamento, contestazione, sanzioni, recupero di crediti d'imposta, liquidazione, rettifica, che scadevano tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020. Noi viviamo in un momento straordinariamente drammatico del nostro paese. L'esigenza del legislatore e del governo era quella di evitare che quest'anno venissero notificati atti da parte dell'Agenzia delle Entrate. E un primo passaggio normativo era quello a cui poc'anzi facevo riferimento, cioè il differimento del termine biennale, perché da un lato abbiamo tutte le norme che regolamentano e cadenziano i termini di decadenza dell'attività delle amministrazioni finanziarie. Si è pensato che quell'impostazione potesse dare luogo a interpretazioni per cui l'agenzia si prendeva 2 anni in più per fare chissà cosa, ma questa è un'impostazione, diciamo, di una visione dall'esterno dell'agenzia. Anch'io, finché ho fatto la professione d'avvocato, immaginavo l'agenzia in un certo modo. Conoscendola dall'interno, so bene che quei 2 anni in più servivano semplicemente a fare esattamente la stessa attività che si sarebbe fatta quest'anno. Però il legislatore ha superato quell'impostazione. E nel frattempo, da un aggiornamento, il dato sui decessi di oggi è il più basso, è il nuovo minimo dall'inizio della pandemia, quindi attenzione, da quello che capisco, da inizio marzo, adesso vedremo le serie, mentre il dato dei contagiati è il più basso da febbraio, ma lì sappiamo che contano molto anche i tamponi. Comunque, torniamo a bomba sugli elementi fiscali. Jean-Marie Delbo, va bene il rinvio degli atti di accertamento, molti hanno storto la bocca, e non solo, sul posticipo troppo breve di quello che ricordavamo, cioè gli acconti IRPEF e quant'altro, cioè 3 settimane sembrano così una foglia di fico. Sì, ma la soluzione probabilmente sarà poi un'ulteriore proroga. Il problema era che bisognava intervenire con un provvedimento che consentisse di saltare la scadenza del 30 di giugno. Non c'era un provvedimento avente forza di legge, bisognava farlo con un altro provvedimento che non consente di rinviare più di 20 giorni. Quindi probabilmente si tratta anche qui di un bridge, tanto per usare un termine in questo periodo particolarmente diffuso, che viene utilizzato per intanto togliere di mezzo la scadenza del 30 di giugno, e poi si vedrà se sarà il 30 settembre, come si dice, oppure se ci sarà un altro termine. Allora, per quello che riguarda invece la voluntary disclosure, gli stessi commercialisti, dico Miani, il loro presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha detto: attenzione, non siamo favorevoli per principio a condoni. E devo dire che anche Gualtieri però ha molto frenato sulla voluntary disclosure, mi sembra di capire che... Il governo qui ha una linea abbastanza chiara, che è quella, chiara vedremo, che è quella di dire: noi non vogliamo fare condoni, la voluntary non è un condono, stiamo valutando la situazione, ma in tutti i casi la voluntary sul contante, di cui si parla da tanto tempo, che farebbe emergere il contante, ha molti problemi applicativi, riciclaggio, reati, e di conseguenza somiglia molto a un condono. Quindi la strada è molto stretta, si tratta di capire se poi il governo avrà la forza politica di percorrerla, e quindi se, come forse è possibile, farà una voluntary tradizionale oppure una voluntary più estesa, oppure invece se, a fronte del teorema nessun condono, deciderà di non fare assolutamente nulla. E invece la Calderone, e quindi la Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha detto bene il bonus lavoro, il nuovo bonus cancella il bonus Renzi, quindi ha un doppio significato, ma ha chiesto, se ho ben capito, Jean-Marie, che il provvedimento non sia, diciamo, estemporaneo, l'ha definito Jean-Marie. Sì, diciamo che la Presidente dei Consulenti del Lavoro, come era inevitabile, è andata sul problema del cuneo fiscale, del costo del lavoro, certo, e ha rimarcato questa necessità. Noi abbiamo bisogno di tagli al costo del lavoro, ma di tagli che non siano a termine, in questo caso, che non siano estemporanei, ma che abbiano una durata nel tempo, una durata stabile che consenta di abbassare veramente il costo del lavoro e quindi di far trarre un beneficio permanente dal sistema economico e dal sistema delle imprese. Allora, vedremo. Mi dai subito un dato, questo incuriosisce me, visto che era la prima volta ovviamente che Telefisco si teneva non con presenza fisica nell'Auditorium del Sole, tutti i collegamenti con tutte le sedi in Italia, ma tutto in digitale. Come però voi eravate già abituati a ricevere tantissime domande, la stragrande maggioranza via internet, insomma via digitale, che differenza c'è stata e come è andata, in una battuta? Allora, noi siamo molto soddisfatti perché questa era un'edizione straordinaria che, come tutte le edizioni straordinarie, è stata organizzata in poco tempo e ha portato, ciò nonostante, 23.000 iscritti, che è un numero molto rilevante, alla partecipazione all'evento di oggi. Quindi siamo molto contenti di questa cosa. Oh, bene, poi continueranno le risposte, come in Telefisco potete continuare a mandare le vostre domande, perché le risposte non si esauriscono solo durante la giornata, questo anche negli appuntamenti più tradizionali. Grazie anche a Jean-Marie Delbo e un augurio a voi tutti di buona serata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.